Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno da Filippo Glorioso. Ma insomma, c'è Vasco Rossi stamattina che è in pallone, è il troppo caldo, lui poi gira tutta Italia, sta diventando un grossissimo personaggio, non fisicamente, ma grosso, noi gli auguriamo, perché Santi Genovese, come sempre la regia, ci supporta tecnicamente con molta oculatezza, bisogna dire. Come stiamo stamattina? Stiamo bene, mica tanto, facendo zapping col telecomando ci rendiamo conto quanto sia pesante il vivere quotidiano oggi. Non mettiamo il dito sulla piaga, perché tanto la televisione la guardiamo tutti, i mass media li seguiamo tutti, i giornali li leggiamo quasi tutti, e in effetti gli italiani leggono pochissimo, soprattutto i quotidiani e anche alcuni libri o tutti i libri, che sono quasi tutti interessanti. A fronte di ciò invece abbiamo una classe culturale molto prolifica, nel senso che scrivono tanto, anche cantanti, tantissimi attori, tutti vogliamo fare di tutto e di più. L'Italia è cominciamo con l'ospite adesso, stavo parlando di chi, che in Italia si scrive tanto, si legge poco, e bisognerebbe invece invertire le cose come fanno i britannici, i francesi, tutti i nostri amici europei. Noi siamo fonte di una grande cultura, sia nel passato con la grande Roma, ma una nostra cultura è incommensurabile in termini non soltanto di letteratura, ma soprattutto per quanto attiene i siti archeologici e i siti che danno la visibilità alla nostra nazione, Venezia, Firenze, insomma gli Uffizi, il Vaticano, abbiamo tante belle cose in Italia e non soltanto. Poi l'enogastronomia, insomma, non guasta. A proposito di questo, ieri sera facendo zapping col telecomando ho beccato il mio amico Lamantia, e faceva pubblicità, non diciamo che cosa faceva pubblicità, però Lamantia, insomma, è sicilianissimo di Palermo, ex fotografo, è diventato uno dei più grandi chef che abbiamo in Italia, e desideravo presentarvi un ospite che ho qui seduto alla mia destra, del padre. Lui si chiama Sauro, dimentico il nome, Stefano Sauro. Abbiamo l'ospite al telefono, Stefano Sauro, buongiorno a te, grazie per essere qui, poi buongiorno, vi spiego la motivazione. Buongiorno a tutti, è normale, a chi ci sta ascoltando. Vi spiegherò la motivazione, chi è questo personaggio che è qui, detto così, Sauro, già è un nome abbastanza, insomma, impegnativo, ma lui fa delle cose veramente impegnative, ne parliamo tra poco, perché abbiamo già in diretta radiofonica un amico, un personaggio, una persona che è investita da una grande responsabilità istituzionale, il presidente dell'Ente Parco, Angelo Rizzuto. Buongiorno Angelo. Buongiorno a voi. Ti sento come se fossi dietro la porta. Come stai intanto, ti chiedo? Sì. Tutto bene al lavoro. Sì. Tutto bene. Intanto le mie congratulazioni e felicitazioni, non soltanto le mie, ma per chi conosce Angelo Rizzuto sa che è una persona molto a modo, una persona per bene, una persona che si impegna in quello che crede e in quello che fa. Tranne una piccola fazione di tempo che tu sei mancato dall'istituzione dell'Ente Parco, Angelo, cosa hai lasciato di tuo e cosa hai trovato invece di tuo? Ma guarda, io ti dico, non ci sono stati grandi cambiamenti, perché purtroppo con una situazione contingente economica che ha colpito un po' tutti gli enti, e non solo il nostro, diciamo, non c'è stato grande margine per fare nuove iniziative, nuovi investimenti, sì, eccetera. Quindi stiamo cercando un po' di consolidare quanto già fatto, in termini di sia amministrazione corrente ordinaria, ma anche come razionalizzazione delle risorse, come reimpiego dei dipendenti a funzioni più diciamo utili e quantomeno incidenti nel territorio, e soprattutto con un occhio sempre volto alla conservazione e alla tutela dell'ambiente. Senti, ci sono tante situazioni all'interno del parco che andrebbero monitorate, rivisitate, vedi, non so, Gole del Tiberio che stanno prendendo piede, grazie anche all'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco che si è molto interessato, questo rientra dentro il parco, è una bella notizia, e altre cose a Gangi e nell'Interland di Castelbuono, eccetera, si sta muovendo in un certo modo. Però, caro Angelo, nella tua assenza hai lasciato i cinghiali e li abbiamo ritrovati insieme agli incredibili, che poi è la stessa cosa. Stamattina mi piace scherzarci un po' su, perché la cosa è drammatica, Angelo, era la motivazione per la quale ti chiamavo. Tu sai perfettamente la situazione qual è. Non so cosa hanno fatto fino ad oggi i sindaci del parco, ma sicuramente, secondo me, ci vuole veramente uno sforzo notevole per far sì che ci sia una legiferazione tutt'oggi non presente nella nostra regione, mentre negli altri parchi tu mi insegni che ci sono delle regole ben precise e definite che consentono l'abbattimento settoriale da parte di alcuni cacciatori predisposti istituzionalmente a fare questo compito. Per quanto attiene invece il futuro delle Madonie, perché veramente guarda, è messo sotto sopra, è a soqquadro, tutto l'interland del parco, e dentro il parco c'è il finimondo, scavi dappertutto. Cosa bisogna fare secondo te? Guarda, allora, sul fatto che diciamo abbiamo ritrovato quello che avevamo lasciato, hai perfettamente ragione. Devo dire che mentre io non c'ero, si è svolto un consiglio straordinario del parco, al quale sono venuti alcuni assessori regionali che hanno rifatto le solite promesse che fanno da 3 anni, tant'è vero che io non ne convoco più di questi tavoli, perché francamente, anche se non sono molto vecchio, non ho più voglia di essere presente. Angelo, perdonami, tra questi c'era per caso anche un amico, ma bisogna menzionarlo, perché l'attuale assessore all'agricoltura è il dottor Dario Cartabellotta. Sì, c'era anche lui. C'era anche lui. No, giusto per sottolinearlo. Mi risulta che abbiano preso impegni, però nella finanziaria testé presentata non ho notato, io l'ho letta abbastanza dettagliatamente, nessun provvedimento in tal senso. Possibilmente l'assessore, come è sua facoltà, ha deciso di poi presentare una norma a parte sul settore, per carità. Però il problema è che dalla riunione, che già è stata credo 2 o 3 mesi fa, non è cambiato nulla, non è sortito nessun effetto. Allora io dico questo, siccome purtroppo tutto quello che l'ente parco poteva fare, e i sindaci diciamo possono fare, i sindaci possono fare soltanto il ruolo di pungolo e di protesta, perché su questo non hanno nessuna competenza. L'ente parco ha fornito delle relazioni e delle soluzioni con i mezzi che avevamo, mai raccolte. Allora io ormai penso che l'unico sistema sia quello di portare la protesta al prossimo livello, così come abbiamo fatto con l'ospedale Madonna dell'Alto, così come abbiamo fatto con Piano Battaglia, cioè a questo punto andare a Palermo, fare presidi e incatenarci là fino a quando Suggerirei, io sono molto più drastico di te, forse meno diplomatico, Angelo, tu lo devi essere sia per natura tua, ma lo sei anche perché sei investito di un incarico istituzionale, quindi voglio dire, devi restare dentro le regole. E io direi ancora di più, io pregherei tutti i contadini di Castelbuono, di Geraci, di San Mauro, eccetera, eccetera, di prendere delle gabbie, acchiappare una cinquantina di questi ibridi e portarli direttamente dentro la regione siciliana, se non a casa dei vari assessori. Così vediamo se poi il disagio lo devono patire soltanto chi vive nelle campagne e non farlo patire a chi invece non capisce nulla di questa questa tematica, che davanti agli occhi di tutti, insomma, ed è drammatica, ci potrebbe anche scappare il morto. Assolutamente. Io continuerò su questa linea dura con nuove iniziative adesso subito dopo le feste, perché certamente una cosa che non farò è convocare un nuovo tavolo tecnico per farmi dire le stesse cose che da 3 anni andiamo dicendo. Quindi ormai la lotta si sposta a Palermo con delle iniziative che stiamo pensando. Angelo, tu sai che i nostri microfoni sono aperti a tua disposizione, a disposizione dell'ente parco, a disposizione dei sindaci, come abbiamo sempre fatto, sia da parte dell'editore che da chi ti sta parlando in questo momento, perché mi sta molto a cuore la situazione che potrebbe precipitare da un momento all'altro. Ci è mancato poco che un nostro concittadino delle Madonie, ormai siamo tutti concittadini madoniti, non facciamo del campanilismo, poco ci è mancato che ci rimettesse la pelle. Allora, a questo punto, con la pelle delle persone che stanno in campagna, donne, uomini e bambini che vanno a raccogliere olive, che hanno magari del bestiame e quant'altro, non si può scherzare più. Bisogna prendere dei provvedimenti, come sono stati presi in Valle d'Aosta, in Abruzzo, in qualsiasi altro parco, che hanno le stesse leggi di quelle nostre. Siamo italiani o siamo un mondo a parte? No, assolutamente sì. E io raccolgo il tuo invito e aggiornerò i vostri ascoltatori passo passo delle nostre iniziative. Angelo, io oltre a rinnovarti le mie congratulazioni e felicitazioni per il tuo reintegro sul posto di lavoro, sono certo e convinto che con la tua personalità e il tuo modus operandi riuscirete insieme, di concerto con i tuoi collaboratori che sono i sindaci del parco e i cittadini che appoggeranno senza ombra di dubbio le tue iniziative, si possa riuscire finalmente ad avere una legge chiara, leggibile e eliminare, non dico del tutto, ma almeno ridurre i quantitativi di questi ibridi che altro non fanno che far danni alle nostre colture. Grazie ad Angelo Rizzuto per essere con noi. Grazie e buon lavoro Angelo, ciao. Prima di passare la linea alla regia, io desideravo salutare un amico, si chiama Gian Lombardo. Cosa, perché lo sto salutando? Perché un artigiano è giovane, ha preso in mano le redini della vecchia falegnameria di papà e ha pensato bene di industriarsi, nel senso che tecnicamente oggi è nelle condizioni di fare per voi, anche su misura e con le vostre scelte oculatissime di casa vostra, gli infissi esterni, ma anche interni se volete, in PVC e anche in alluminio, con una cosa molto bella, cioè chi vuole i vetri per esempio termici, noi mettiamo anche quelli. L'amico Gian Lombardo si premura di mettervi i vetri termici ed antisfondamento. Ci sono tantissime altre iniziative che l'amico Gian Lombardo nel tempo pone in essere, quindi però dovete fare questo: andare a San Mauro Castelverde, cercare l'azienda, che è facilissima trovarla peraltro, dell'amico Gian Lombardo, spiegare a lui cosa volete fare con i vostri infissi e lui sarà lietissimo di fare il preventivo a titolo gratuito. Intanto, raggiungendo le vostre abitazioni, si rende conto così quali infissi vanno montati a secondo. Salutiamo l'amico che sta andando via, ciao, un futuro speaker radio televisivo che è straordinario, 1,80 m x 2, insomma eccezionale. Luigi, io lo saluto con affetto e lui sa perché. Dicevo, quindi l'amico Gian Lombardo è nelle condizioni di mettervi gli infissi come quando volete voi, a secondo i vostri gusti, anche i colori possono essere variegati, ma ricordate questi aspetti tecnici, cioè con i vetri termici, nel senso che non fanno entrare il freddo e non fanno uscire il caldo verso l'esterno di casa vostra, soprattutto nel periodo invernale, ma la cosa importante è che sono anche antisfondamento. Salutiamo l'azienda, la trovate a San Mauro Castelverde. Nel proseguo delle nostre trasmissioni vi daremo sempre maggiori novità e maggiori ragguagli. Detto questo, io direi di dare un po' la linea alla regia, vediamo cosa ci propone e poi al rientro vi faccio parlare, vi faccio disquisire con l'amico Sauro. Linea alla regia. Davanti a me, qui mentre canto. allora rieccoci in diretta, sta ascoltando Carta e Penna a cura di Filippo Glorioso, la regia come sempre Santi Genovese, che ringraziamo per la sua oculatezza nel lavoro. È molto attento, devo dire, Santino. È molto attento, sì. Ah, anche perché poi somiglia a un famosissimo cantante, c'è cioè il berrettino, sti capelli fluenti, tutti chiomati, ormai è diventato tutto Carrero Blanco. Lui non tinge i capelli perché quello ha un certo fascino, voglio dire. Vedi. Allora, dicevamo, in studio abbiamo un ospite che, detto così su due piedi, lui fa un'attività benemerita, devo dire, fa l'assicuratore, cosa che ho fatto anch'io nell'arco della mia vita. Lavora per le generali, lo possiamo anche dire, non è pubblicità, è una bella realtà, sì, una delle maggiori in Europa. Poi c'è il gruppo RAS, insomma, è una bella realtà. Lui opera in questo settore, nel ramo della previdenza, nel ramo del risparmio, per chi vuole farsi una pensione integrativa, e quindi fa del bene, ma fa del bene anche a se stesso, perché vendendo polizze guadagna anche lui. Ma non è questo di cui volevamo parlare stamattina. La questio, dicevano i latini, è un'altra. L'estate scorsa mi arriva una telefonata da parte di uno zio, che è zio suo ma un caro amico mio che io stimo tantissimo, il dottor Domina, il quale mi dice: ti chiamerà mio nipote, ti deve dire qualcosa. Sauro l'avevo conosciuto in una circostanza di una mia conduzione di serata a proposito della Castellana, sì, esatto, a Gangi. Lui si ricorda di questa cosa, dice: mi serve la tua voce. Ha detto: guarda, te la lancio. Se lo mando. No, devi venire lì, dobbiamo registrarci. È stata una bellissima esperienza. Prima perché siamo andati e non sapevo che a Pedralia Soprana ci fosse un centro di registrazione così ben forbito, dove molti cantanti di levatura nazionale vanno a registrare. Punto primo. Punto secondo. La cosa che mi ha sbalordito è l'oculatezza, l'attenzione, la cura con la quale Sauro, di concerto con altri due suoi collaboratori che hanno firmato la regia di questo musical tratto liberamente dalla storia dello zoppo di Gangi, che fu a cavallo tra il 400 e il 500 uno dei migliori pittori che sono menzionati anche nei libri di cultura pittorica, e quindi è stato sicuramente un nome che ha lasciato la sua firma indelebile nel tempo. Lo zoppo di Gangi, la prova ne sia che nella piazza principale di Gangi c'è una statua messa, che il comune ha voluto omaggiare questo grande pittore, Madonita prima, Gangitano prima, ma Madonita, quindi è una roba che riguarda tutti quanti noi e la nostra cultura. Questo zoppo di Gangi fece un quadro, se non sbaglio, il Giudizio Universale. Esatto, ha fatto quadri, tra il più importante indubbiamente è il Giudizio Universale. Detto così, vabbè, il classico musical raffazzonato fatto con quattro attorini, un po' di musica con pur parlé, insomma, mi aspettavo un qualcosa di veramente riduttivo, anche se conoscendo poco sia Sauro prima che la realtà gangitana dopo, beh, non so questi ragazzi cosa vogliono fare. Beh, ragazzi, vi assicuro, sono state date delle repliche. La prima serata, io andai in seconda serata a vedere questo musical, mi impressionai di questa voce mia che usciva fuori, ma la cosa che mi ha impressionato favorevolmente, devo dire, che non hanno avuto, con qualche pecchettina, perché sono dei dilettanti, non sono professionisti del settore, nel senso che lo fanno per hobby e non perché devono lucrare dei soldi come fanno molti attori, registi, eccetera, però vi assicuro che ha avuto un successo strepitoso, soprattutto di pubblico, ma anche la critica è stata favorevole, perché la scelta delle musiche, la scelta degli attori, la scelta delle scenografie, che erano straordinariamente belle, ma poi insomma messe a punto anche da un fonico di tutto riguardo e da un musicista di tutto riguardo come Filippo Paternò. Ecco, Paternò, bisogna menzionarlo, insomma è uscito fuori un mostro nel senso bello della parola, è uscito fuori un capolavoro artistico. Allora, cominciamo da qui. Intanto, l'idea di fare questo musical, tu che nella vita hai fatto tutt'altro, fai tutt'altro, da cosa nasce, Sauro? Sì, io nella vita faccio tutt'altro, naturalmente, come tu hai ben detto all'inizio, e ti ringrazio, perché comunque sia fa sempre piacere, però porto avanti da tanti anni, insomma, questa passione che è il teatro, e da sempre ci siamo cementati con l'esperimento musical. Sì. Però sempre degli altri, perché vuoi non vuoi, i musical li fanno sempre gli altri. È Broadway, soprattutto. E quindi tu sei costretto per lo più a copiare quello che hanno fatto gli altri. E stanchi proprio di questo, e consapevole del fatto che ci sono tanti talenti nel nostro territorio madonita, è vero, meraviglioso territorio, ho deciso di mettermi a lavorare nel lontano 2006 su un testo totalmente nuovo, per avere anche la possibilità di portarlo in giro, perché poi se fai il musical di un altro hai difficoltà anche a farlo girare, non puoi farlo girare. Invece un testo nostro tutto diventa più semplice, e quindi abbiamo iniziato questa operazione nel 2006 e ci abbiamo lavorato tantissimo, e appena il copione ci ha convinto, e abbiamo il passo successivo erano le musiche, naturalmente, che è la base di molto musical. Belle, devo dire, e abbiamo avuto la fortuna di trovare la disponibilità del maestro Paternò, uno dei chitarristi più bravi ci sono in circolazione, che ha fatto delle musiche straordinarie. Ordinarie, e dopo 600 ore di composizione ha creato quella meraviglia che tu hai ascoltato. E quindi, naturalmente, stimolati da questo, stimolati dal testo, stimolati dalle musiche, non potevamo fare altro che andare avanti. E noi a Gange abbiamo la fortuna di essere una comunità molto compatta, abbiamo sia per quanto riguarda l'amministrazione, che naturalmente è la testa di una comunità che sta molto vicina, saluto il sindaco Giuseppe Ferrarello, assolutamente, che ci è stato vicino sia come amministrazione sia personalmente. Abbiamo la fortuna di avere la banca di credito, che è una banca nostra che affianca sempre le attività culturali, che supporta anche culturalmente economicamente dire, anche i sforzi. Il che è fondamentale, perché comunque sia, anche se come dice, come dici tu, è un esperimento fatto da dilettanti, però un esperimento che ha avuto costi non indifferenti. Beh, dilettanti mica tanto, Sauro, perché poi a parte... ti stoppo un attimo, ma ti so subito la parola. Dilettanti mica tanto, perché osservando tutto l'organigramma della serata, devo dire intanto straordinario l'attore principale. Sì, sì, sì. Una sì, voce ragazzi, meravigliosa, cantava proprio. Poi la recita, insomma, cantare e recitare non è da tutti, ma è stato, lo vogliamo menzionare come. Sì, certo, assolutamente. Stefano Rizzo di Gela, infatti andavo proprio su questo, anche se c'erano ragazzi senza esperienza, naturalmente selezionati per la prima volta, ma fatti presi da selezioni, ecco, non a caso. Poi c'erano comunque altri semiprofessionisti e professionisti che ballano nei teatri, ad esempio i ballerini, alcuni erano del teatro, ballano nel Teatro Bellini, al Metropolitan di Catania, e un altro ragazzo è stato selezionato in Svizzera, adesso a Ginevra balla lì, insomma c'erano anche i talenti, ecco, e i professionisti veri. Quindi abbiamo creato questo purpurì di dilettanti e professionisti, abbiamo portato in scena questo spettacolo. Oltre a Stefano Rizzo da Gela c'era anche Pamela Arces, la nostra coreografa, assieme a Ivan Bottaro, e hanno curato le coreografie, gente che ha ballato in Notre Dame de Paris, insomma in musical anche di spessore. Poi la ciliegina sulla torta è stata la tua voce. Onestamente, non pensavamo di arrivarci, però fortunatamente grazie all'amicizia che tu hai con... No, io ringrazio voi perché mi avete dato, ma veramente non è plagio. Intanto io, tu sai che adoro Gangi e amo Castelbuono, amo tantissimo il mio paese che mi ha dato i natali, ma dal punto di vista artistico io nasco a Castelbuono e devo dire che i castelbonesi mi hanno accolto veramente a braccia aperte, dandomi l'ampia facoltà di condurre serate anche di un certo peso. Su Gangi ti dicevo, io le mie origini da parte di nonna sono di quel comune, e a dire il vero ho riscoperto una cittadina meravigliosa, cioè dei borghi stupendi, degli scorci meravigliosi, ma soprattutto la gente, il pubblico la sera quando finì di presentare, di condurre la serata che voi mi avete dato in conduzione, quella della Castellana, quando scesi dal palco, ma anche sul palco stesso, sono stato piacevolmente abbracciato dalla comunità gangitana, per cui mi sono anche commosso. È stato un onore. Una cosa bella, ma la cosa più bella che Gangi, oltre il borgo più bello d'Italia, oltre i riconoscimenti nazionali, gioielli d'Italia, in Sicilia, 20 paesi in tutta Italia, l'unico in Sicilia è Gangi. Bene, e poi avete fatto quel percorso enogastronomico l'estate scorsa. Sì, esatto. Ecco, per cui Gangi si sta ponendo anche in concorrenza, diciamola, con Castelbuono. Sì, esatto. Diciamo che sono i due gioielli, insomma, comunque sia, sono, diciamo, i paesi più attivi, esatto, culturalmente, esatto, parlando. Esatto. E adesso, avendo parlato di questa perla, di questa chicca che è stata lanciata quest'estate, con l'augurio da parte mia, naturalmente, che non si fermi lì, Sauro, dobbiamo fare di tutto perché ci stiamo provando. uscire fuori dai confini delle Madonie, perché ne vale la pena. Gli artisti, così adesso vengono definiti, anche coloro i quali non sono di professione artisti ma lo fanno prestati, beh, io credo che quel musical, se con un ritocchino a malapena in alcuni punti, io credo che non abbia nulla a che invidiare né ad Excalibur, che sta andando in scena in questo momento, dove ci lavora anche una persona a me molto cara, ma né all'Opéra de Paris, con tutto il rispetto, perché lì i milioni c'erano, quindi gli attori, i cantanti erano di primissimo piano. Ma ritengo giusto, non a torto, quello che dicevi prima tu, che a Gange e nell'Interland delle Madonie ci sono delle realtà artistiche, cioè parliamo di giovani cantanti, di batteristi, di attori, che non hanno nulla a che invidiare, se non il fatto che non hanno in logo una palestra dove esercitarsi. Quello sì, è quello che manca a Gange e nel nostro territorio. Manca la scuola, La scuola di teatro, ecco, quello è. Noi stiamo provando, insomma, ad uscire fuori, perché ce lo chiedono in tanti, ce lo stanno chiedendo in città, insomma, speriamo al prossimo appuntamento già di poterlo dare orientativamente, ma insomma, speriamo per fine febbraio-marzo di uscire a Palermo. Oh, adesso invece chi gira per Cefalù e dintorni legge che dal 26 di questo mese fino al 29, mi pare, a partire da una certa ora, c'è un'altra sorpresa gratevolissima a Gange. Gange, ragazzi, pensate, ha fatto il presepe vivente, ma non il classico presepe, qualcosa di straordinario, menzionato da Rai 2 in prima serata, menzionato da Rai 3 a livello regionale, e quest'anno, insomma, raggiunge quanti anni sono che fate il presepe? Questa è la quinta edizione. La quinta edizione, con 150 figuranti. Sì, 150 figuranti, che insomma distribuiti nella parte più bella del centro storico gangitano, rappresentano, insomma, rappresentiamo tutta quella che è la natività, dando molto rilievo all'aspetto umano della nascita di Cristo, quindi il Dio uomo più che la divinità, da Nazareth a Betlemme, quindi un percorso che va dall'annunciazione a Maria e Giuseppe fino ad arrivare, insomma, poi alla natività a Betlemme. Senti, oltre alla tua collaborazione e quella del dottor Domina, che insomma ci mette del suo, insomma, indipendentemente poi dal tipo di lavoro che lui svolge, io l'ho visto appassionatissimo, insomma, nel mettere a punto tutte le situazioni e per poi dare la possibilità ai visitatori, mi auguro che siano tantissimi come è successo per il musical, perché vedere Gange soprattutto di sera a distanza e vedere l'Etna che si proietta alle spalle dietro, ecco, questo paese che è ad albero di Natale, no? Il primo impatto è di entrare in un mondo surreale. Se poi visitate Gange all'interno, ma ragazzi, è qualcosa, ma veramente tutti i paesi delle Madonie, delle Pedrerie, Castelbuono, Gratteri, hanno delle peculiarità straordinarie. Ma Gange, oltre alla storia che viene raccontata di bocca in bocca, ma viene anche letta in alcuni cenni storici, tra cui la presa di Gange da parte del prefetto di Ferro, rimasto ormai negli annali, con dei banditi famosissimi, cioè, quindi ha una storia, voglio dire, culturale di un certo tipo, ma anche delle storie che non hanno nulla di culturale, ma che comunque hanno consentito a questo comune, a questo centro madonita, di essere presente nella storia odierna della nostra regione e dell'Italia intera. Futuri progetti, perché voi, cioè tu, Domina, eccetera, siete un gruppo che sfornate idee in continuazione. Sì, questo forse è dovuto, diciamo, spesso all'isolamento che Gange per certi aspetti ha con il resto è lontano dalla città, quindi siamo pochi, ma siamo forti, siamo uniti. Pochi ma buoni. Esatto, quindi intanto il presepe vivente, quindi vi invito a visitarlo dal 26 al 29. Scusami, ma al posto dei cammelli cosa mettete, i cavalli? Ma non sappiamo, possibilmente arrivano pure i cammelli, ma sono spettacolari. No, ragazzi, lasciamo la sorpresa. La sorpresa. Sì, intanto ci tenevo a dirla che comunque oltre a me e a Carmelo ci sono altri tre registi, che sono Peppuccio Ballistreri, Giovanni Germanà e Luciano Inguaggiato, e poi c'è assolutamente, mi pare anche giusto ringraziare e salutarli. Abbiamo anche la tua voce nel presepe vivente, nuovamente questo onore, e poi c'è il Forum Giovani e l'amministrazione, naturalmente, che gestiscono tutti gli aspetti organizzativi e burocratici. Quindi per ora ci dedichiamo al presepe vivente, poi all'anno nuovo un po' di riposo e poi si riparte, perché comunque chissà Gange, che succederà l'estate prossima. Ma Gange è gioiello d'Italia anche per questo motivo, perché tra i vari motivi della premiazione associazione riusciamo a distribuire durante tutto l'anno una serie di offerte culturali per chi viene da fuori, non di poco conto, comunque tutte di rilievo, ecco, tutte di spessore abbastanza l'augurio alto. Che io faccio agli amici di Gangi, come li faccio a tutti gli amici delle Madonie e non solo alla Sicilia intera, è che i nostri paesi dell'entroterra si sono un po' decurtati, depauperati demograficamente, perché molti giovani, e Gangi era una cittadina che forniva diverse aziende soprattutto nell'ambito dell'edilizia, no? Si lavorava a Iosa, e da qualche anno adesso comincia anche lì ad esserci dei problemi. Però la grande intelligenza, diciamo i latini, del popolo gangitano, come di quello castelbonese, operoso, iperattivo, ipersensibile anche alla cultura, per carità, ci mancherebbe altro, forse stanno sostituendo via via, mi auguro che sia così, il discorso dell'edilizia, che comunque deve ripartire, perché c'è gente che ci lavora, c'è e ci vive gente, con sì. Tanto di rispetto, bisogna che riparta l'economia in generale, in particolare quella dell'edilizia e dell'agricoltura, che riguarda i nostri territori. Ma l'augurio che io vi faccio è che Gangi, insieme a Castelbuono, insieme a tutti gli altri paesi, possa vivere, perché no, visto che ha tanti gioielli all'interno, di turismo, di turismo sano, di turismo che viene veicolato grazie alla cultura. E su quello stiamo puntando. Stefano, tanti in bocca al lupo, grazie, noi ci incontreremo sicuramente, sì, prima, certo, di Natale ci faremo ancora gli auguri. Ti aspettiamo per il presepe, naturalmente. Beh, è chiaro, è il minus che io possa fare, cioè venire lì a vedere questa bellezza, quest'altra gemma che si incastona in un palmarès straordinario degli amici di Gangi. Grazie a Stefano Savro, grazie a te di cuore, ai tuoi collaboratori, per quello che fate anche per noi, per godere di una vista straordinaria del paese prima e delle opere d'arte che voi riuscite a porre in essere. Grazie a te. Grazie a Stefano Savro. Grazie a voi, grazie alla regia. Grazie, resta pure qui. Io direi di dare la linea alla regia per una breve pausa musicale e poi, prima di chiudere, ultime battute e ci saluteremo augurandoci forse buon Natale, sì, ce la facciamo adesso, ecco, già Santi ride. Chissà come sarà il Natale del prossimo anno, Santi, non si sa. Linea alla regia. Allora 12:55:27, vi ricordo che potete inviarci un messaggio direttamente dal nostro sito www.crmpiredio.it, inviateci un sms se volete al 335-5637-251 o telefonate direttamente allo 0921-92-32-92, scrivete se volete anche su Facebook, ci siamo anche lì, se non ci siamo già tra i vostri amici, insomma contattateci e cercate CRM Epiredio. Detto questo, un breve cappelletto di chiusura, prima di ringraziare gli ospiti che sono stati sia via telefono che presenti qui, Stefano Savro e il presidente dell'ente parco, il dottor Vizzuto, che ringrazio sentitamente perché è una persona molto triatica, e quindi gli auguro un buon lavoro proficuo per il futuro del nostro parco. Cosa volevo dirvi? Semplicemente di stringere i denti, ahimè ancora, di stringere la cinghia e chissà per quanto tempo, sperando che questi nuovi governanti si decidano a fare questa legge elettorale, a fare una buona legge elettorale, di modo tale che siamo veramente noi, il popolo, a decidere chi mandare come nostri rappresentanti in questo Parlamento, insomma. E poi sarei d'accordo anche a eliminare il Senato, perché chiamare una persona onorevole, insomma, con i tempi che corrono, è dissonante, discordante con l'attualità. E poi anche senatori, ma senatori di che? Insomma, dobbiamo eleggere i nostri rappresentanti del popolo, punto, chiamiamoli così, senza parafrasare più nessun'altra situazione. Auguro a tutti quanti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento un Natale di immensa felicità, anche se so che in molte case forse mancherà anche qualcosa da mettere sotto i denti. Io mi auguro che il buon Dio ci guardi con un occhio di pietà, ecco, e ci dia la possibilità di riprendere tutto quello che abbiamo perso in questi tempi, soprattutto per i più piccoli, per i piccini e per gli anziani che sono i più deboli. L'augurio che vi faccio quindi è di un buon Natale, all'insegna di un po' di calore del vostro camino, del focolare domestico così chiamato. Cerchiamo di essere in pace con noi stessi e ancora con i nostri amici, con i nostri nemici se possibile. Cercare insomma di essere noi stessi all'insegna di quello che Dio ci ha insegnato e all'insegna di quello che gli uomini ci hanno trasmesso, gli uomini veri come Nelson Mandela. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ringrazio alla regia come sempre Santi Genovese, ringrazio i nostri ospiti ancora, ma soprattutto ringrazio voi per la bontà e per come dire, la perseveranza con la quale ci seguite con tanta attenzione. Grazie ancora, l'appuntamento è per la prossima puntata, la differita domenica sempre alle 9:30. Grazie a tutti, un bacio, ciao, buon Natale. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo.